X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Riccardo Illy, 61 anni, triestino, sposato con una figlia, imprenditore prestato alla politica per un certo tempo, sindaco di Trieste, deputato dell'Ulivo dal 2001 al 2003. Anni che ricordo come più noiosi della mia vita, ha detto. Infine governatore del Friuli, poi ha detto mi rottamo da solo, condivido il bisogno di giovani. E così è tornato in azienda. Valdese di formazione, comincia a lavorare come facchino, poi autista, fa anche il maestro di sci. Tutto pur di non entrare in azienda perché il padre dice non mi offriva gli incarichi giusti. Impara l'arte del caffè, non alla Illy ma nell'azienda del padre di un compagno di classe. Poi arriva la chiamata giusta nel settore del marketing e delle vendite. La sua frase preferita è piuttosto che niente, meglio piuttosto. Ecco, forte sostenitore del sì del referendum, ha detto, mi ricorda la teoria della rana bollita che citava sempre mio padre. Ecco, dottor Illy, buongiorno, ma qual è la teoria della rana bollita? È che si mettono due rane, una nell'acqua fredda e poi la si mette a scaldare, l'altra la si butta nell'acqua già bollente. E quella messa nell'acqua fredda, secondo degli scienziati, morirebbe perché non si accorgerebbe dell'acqua scaldata. In realtà hanno fatto la prova effettiva e hanno scoperto che anche mettendola nell'acqua fredda, la rana pian piano, quando si accorge che diventa bollente, e allora? Salta fuori. E allora col referendum che c'entra? C'entra che siamo bolliti? Secondo la vecchia teoria saremo bolliti, invece secondo me ci accorgeremo che l'acqua diventa bollente e salteremo fuori, e quindi la prossima volta cambieremo voto al referendum, andrà meglio. Senta, ma se aspettava intanto per questa volta una vittoria così netta del no? Lo dicevano i sondaggi, siccome li avevano toppati praticamente tutti mi sono detto speriamo che sia toppato pure questo. Senta, invece hanno azzeccato solo questo. Ecco, senta, ma ha fatto bene Renzi a dimettersi? Beh, era inevitabile. Non poteva fare altro dopo aver sostenuto con il suo governo le riforme, la madre di tutte le riforme, quella della Costituzione. Senta, sul Foglio Antonio Pascale ha scritto un articolo a proposito dell'esito del referendum dicendo l'Italia che si vanta di essere un paese creativo e fantasioso poi ai fatti diventa pigro e pavido. È d'accordo? In questo caso direi la maggioranza degli italiani si è fatto influenzare da persone che perseguono altri obiettivi di breve termine, che è quello di vincere le prossime elezioni, ai quali interessa poco l'obiettivo di lungo termine, che è quello di avere una Costituzione migliore e la possibilità di governare il paese in maniera più efficace. Quindi se l'Italia del sì è un'Italia creativa e fantasiosa, che sa rischiare, l'Italia del no chi è? È quella direi che vuole tutto subito? Un'Italia poco informata. Mi chiedo quanti di quelli che hanno votato no abbiano letto, non dico le modifiche della Costituzione che il Parlamento aveva approvato, ricordo con doppia lettura, quindi con enorme fatica, ma se avessero mai letto prima l'intera Costituzione italiana, così come sta e giace e così come l'hanno confermata con il no. Senta, ma la personalizzazione da parte di Renzi della battaglia è quella che l'ha fatto perdere? Non credo, è una personalizzazione che hanno indotto i mezzi di informazione. Secondo me Renzi ha voluto solo anticipare la domanda, ma se perde al referendum che cosa fa? Dice, ovviamente avrebbe risposto mi dimetto, ma sarebbe stato sulle difensive. Ha preferito anticipare lui la risposta. Senta, però dopo aver annunciato fulmine, tempeste, minacciato cose tremende per la vittoria del no, in realtà la borsa, le borse sono rimaste lì dove sono più o meno. I mercati a termine tendono sempre a scontare in anticipo gli effetti che si prevedono. Cioè erano già stati scontati. Era già scontato. Senta, è troppo presto per dire se ci saranno problemi veri per l'economia da anni, insomma, più avanti. I problemi in realtà li abbiamo da 30 anni. Sempre. L'Italia sta seguendo un lento declino che purtroppo, salvo altri cambiamenti futuri che all'orizzonte al momento non vedo, continuerà a declinare. Senta, la Spagna invece per più di 300 giorni è stata senza governo e ripartita. Dimostrazione di cosa? Che l'economia non ha bisogno della politica? La Spagna aveva fatto riforme molto importanti in precedenza e quindi è andata avanti per inerzia. Anche con il governo Renzi alcune riforme importanti sono state fatte, quindi un po' di inerzia ce l'abbiamo. Ci sarà. Senta, i dati Confindustria però sono tremendi, perché dicono che dal 2000 al 2015 il PIL è aumentato del 23,5% in Spagna, del 18% in Francia, del 18% in Germania. L'Italia è calata dello 0,5%. In pratica abbiamo perso praticamente 15 anni. Perché? C'è stato un problema devastante in Italia a causa della recessione a W, direbbero gli economisti, o probabilmente la chiameremo depressione nei libri di economia, che ha praticamente fatto sparire quasi un quarto della capacità produttiva italiana. Ma la crisi è stata per tutti, però anche per gli altri paesi che citavo, dottor Illy. Ma gli altri paesi non avevano il 130% di debito pubblico e quindi hanno potuto intervenire in termini di disavanzo. Quindi è la nostra eredità che ci ha impedito di seguire quei numeri di sviluppo. Esattamente, anche perché se noi indebitiamo ulteriormente lo Stato italiano andiamo incontro all'insolvenza. Senta, qualche anno fa lei ha detto il paese da troppo tempo governato in modo mediocre. Ecco, il governo Renzi aveva fatto cambiare idea, l'aveva fatto cambiare idea? Direi proprio di sì, perché ha realizzato alcune riforme fondamentali, ne cito una per tutte, quella del mercato del lavoro, che erano attese da decenni. Ne ha fatte poi anche tante altre, non voglio dire tutte perfette, ma senz'altro un cambio di rotta era arrivato. Ecco, dottor Illy, lei qualche anno fa scriveva: ci vorrebbe la polietica, cioè prima gli interessi generali e poi quelli particolari. Ma lei a chi lo ha visto fare veramente in concreto? A pochi. Aggiungo anche che vanno anteposti gli interessi di lungo termine su quelli di breve. Il governo Renzi si è comportato in buona parte in maniera polietica. Anche nelle aziende questo, no? Bisognerebbe fare. Assolutamente. Purtroppo i mercati e soprattutto la borsa tende a premiare i risultati a breve termine, non quelli a medio lungo. Ecco, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel suo discorso di insediamento ha detto delle cose durissime, perché ha detto che in Italia le imprese sono troppo piccole, hanno bassissima produttività, dipendenza dalle banche, arretratezza tecnologica, capitale umano inadeguato. Ha ragione, Sul capitale umano ho delle riserve. A me sembra che il capitale umano sia straordinariamente positivo a tutti i livelli. Sul resto ha ragione, dimentichiamo però che ci sono anche aspetti positivi. Al primo posto metterei la creatività e la propensione per l'estetica. Senta, qual è il peggior difetto dell'imprenditore italiano, se si può dire una cosa generica? Forse non è abbastanza educato, questo rende difficile per esempio il rapporto con le università, con i centri di ricerca scientifica. Moltissimi imprenditori italiani hanno la licenza media. Addirittura elementare. E il maggior pregio invece? Direi proprio il coraggio e la capacità di vedere in tutto il mondo il proprio mercato domestico. Non aver paura del mondo. Non hanno paura del mondo. Senta, lei, lo abbiamo detto, è stato sindaco di Trieste, governatore del Friuli, deputato dell'Ulivo. L'esperienza politica le è servita quando è tornato a fare l'imprenditore? Direi di sì. Perché? In cosa? Beh, ho imparato la pazienza, ho imparato la gestione della complessità. E poi ho imparato da una legge che ogni atto e quindi anche ogni decisione nell'impresa andrebbe motivato. Talvolta nell'impresa si decide perché si è sempre fatto così e non va bene. Lei è un imprenditore, ex politico, l'abbiamo detto, il centro-sinistra riformista in Friuli, roccaforte del centro-destra. Ecco, si sente di più un eretico, un incompreso o che cosa? Ma direi più un eretico, perché pur sostenuto da un governo di centrosinistra in comune e in regione abbiamo approvato degli atti, delle riforme di tipo liberale. Come qual è la cosa di cui è più orgoglioso di aver fatto? Come presidente o come sindaco? Beh, sono state moltissime le iniziative che abbiamo approvato in quegli anni. Forse la cosa fondamentale riguardò proprio il commercio, che ha anticipato la liberalizzazione attuata poi da Monti a livello nazionale. Senta, ma perché proprio gli anni da deputato dell'Ulivo sono stati così noiosi? È così noioso fare il parlamentare? Cito solo un esempio. Per votare il presidente della Camera bisogna avere all'inizio una maggioranza qualificata, che anche se non c'è ci obbliga a votare, mi pare, tre volte con una procedura che dura ogni volta mezza giornata. Un lavoro assolutamente inutile, perché si sa dall'inizio che quella che non c'è. Meglio saltare e passare subito quella dopo. Ma non si può fare. Senta, il gruppo Illy ha chiuso il 2015 con un fatturato più o meno 480 milioni di euro, in crescita dell'11,7% sull'anno prima. Per il 2016 le previsioni come sono? Di un'ulteriore crescita e un superamento, direi alla grande, della barriera dei 500 milioni di euro di fatturato consolidato. Auguri. Senta, voi avete diversificato molto, acquistando il marchio di tè da Manfrère, poi il cioccolato Domori, il vino delle cantine Mastroianni, le confetture agrimontana. Che peso ha avuto questa diversificazione nel nuovo fatturato? Per il momento siamo intorno al 10%, però le aziende che sono più piccole, quelle della diversificazione, crescono più in fretta delle altre. Caffè, quindi questo peso man mano crescerà. La catena funziona. Ecco, ma che criteri avete scelto? Perché sono prodotti molto diversi, tutti da mangiare, però... Il criterio dell'eccellenza, l'obiettivo di acquisire le aziende che facevano il migliore prodotto in assoluto. Di quello specifico. E perché una famiglia che si occupa sempre di caffè decide di occuparsi di tè, che non è nemico giurato il tè? No, noi ne consumiamo l'uno e l'altro. Mio padre beveva prima il tè al mattino e poi il caffè, nel resto della giornata altrettanto faccio io, così fa anche mia madre e milioni di consumatori. Ma gli italiani lo bevono molto il tè, Sempre di più. C'è stata una campagna di stampa molto positiva sul tè, sugli effetti benefici, soprattutto dei suoi antiossidanti, oltre che delle qualità organolettiche, e quindi se ne consuma sempre di più. Ma dopo gli Illy Caffè, quindi ci saranno anche i bar del tè? Abbiamo delle boutique. Da Manna ha 4 boutique, sta per aprire la quinta a Parigi, dove il tè viene solo offerto in degustazione, quindi non viene venduto. Grande pubblicità. Senta, tornando al caffè, dove le piacerebbe aprire il prossimo Illy Caffè? Diciamo a Shanghai. A Shanghai. Perché Shanghai? Bella Shanghai. La Cina è un mercato... Ci siete lì in Cina? Sì, ci siamo, abbiamo proprio la sede della società di distribuzione cinese a Shanghai, che è una grande città ancora in sviluppo, molto interessante. Poi la Cina, da paese esportatore, sta diventando un paese consumatore. E quindi sempre più importante. Ecco, e invece il primo tè bar dove regalare in degustazione il tè? Beh, quello mi verrebbe voglia di aprirlo a Londra. Mi sembrerebbe una concorrenza sana. No, anche perché nell'immaginario collettivo i grandi consumatori vuol dire sono gli inglesi, certo. Mentre la qualità, secondo me, la fanno più i francesi. La qualità francese. Del tè è maggiore francese che inglese? Francesi e tedeschi. Gli inglesi hanno grandi consumi. Lo bevono e basta? Lo bevono in grande quantità, ma sulla qualità c'è dei di dubbi. Meglio. Senta, nel 2017 sbarcherà in Italia Starbucks. Ha preoccupato? La concorrenza fa sempre bene, quindi se arriva Starbucks farà senz'altro bene anche lui. Senta, malgrado un anno del 2015 di ottima annata di crescita, resta l'indebitamento però del gruppo 286 milioni, con un peggioramento di 39 milioni. La quotazione in borsa niente? L'indebitamento è comunque sostenibile perché è pari praticamente al patrimonio netto, quindi siamo in tutti i parametri di assoluta sostenibilità. Sì. La borsa per il momento non perché è all'ordine no? del giorno. Perché no? Perché mio padre diceva sempre che i veri padroni delle nostre imprese sono i consumatori. Quando si va in borsa c'è qualcun altro che più pensa padrone di essere del padrone consumatore. E allora si creerebbe un conflitto di interessi. Senta, l'ipotesi di emettere bond come avete già fatto per il caffè invece la convince di più? Sì, perché bond sì e borsa no? Su questo stiamo lavorando. Il bond è come un prestito bancario, mentre la borsa significa prendere mettersi altri padroni in casa. Sì. Senta, ma è vero che 3 delle più grandi innovazioni per l'industria del caffè le avete sviluppate voi? Sì, corrisponde. La prima macchina espresso... Cioè, quali sono? La prima macchina espresso dell'anno 35, si chiamava Illetta, la disegnò mio nonno. Ed è la capostipite delle macchine espresso moderne, dove la fonte di calore è separata dalla fonte di pressione. Poi la pressurizzazione con la quale conserviamo il caffè, anche per 3 anni... E infine i primi sistemi a porzione, la cialda di carta e oggi la capsula di plastica. Se ma lei la prende la cialda, piglia il caffè in cialda? Sì, sì, l'ho preso per anni, adesso preferisco la plastica, che chiamiamo Iper Espresso, che è un ulteriore sviluppo della tecnica di preparazione dell'espresso. Senta, quanto investite in innovazione oggi? Alcuni punti percentuali del fatturato, tutti gli anni. Alto? È una percentuale abbastanza alta, soprattutto per l'Italia che, ahimè, sia a livello pubblico che privato investe piuttosto poco in ricerca. Senta, ma è vero che ha delle incomprensioni, diciamo così, con suo fratello Andrea, che è il presidente dell'Illy Caffè? Possiamo avere ogni tanto delle discussioni, ma guai se non ci fossero. Ricordo che Peter Drucker, l'inventore del management, diceva sempre: diffidate delle decisioni prese subito all'unanimità. Ma è su che cosa discutete di più? Ma sempre sul merito, ma in genere arriviamo sempre a una conclusione positiva. Senta, adesso avete preso un amministratore delegato esterno, Massimo Pogliani, perché la famiglia non basta più? In certi momenti è necessario avere anche un apporto professionale esterno, in particolare per l'esecuzione. Compito dell'imprenditore è soprattutto definire le strategie, definire l'innovazione, compito del manager, di un amministratore delegato è realizzarlo. Senta, ma quali sono i pro del capitalismo familiare? Direi soprattutto l'impegno che un imprenditore familiare può mettere nell'impresa se porta lo stesso nome. Cioè guarda anche più a lungo, più lontano. E la visione di lungo termine, sono due aspetti. E il contro invece? Il contro è che spesso, essendo membro di una famiglia, l'imprenditore ritiene di aver diritto non solo a essere socio domani, ma anche amministratore, possibilmente manager. Magari non ha le capacità per farlo. Ecco, sua figlia per esempio non lavora in azienda, personal trainer. Le dispiace che non lavori in azienda? È stata personal trainer, imprenditrice, ormai lavora in azienda da qualche anno. Ha chiesto adesso lei di venire, non gliel'ho chiesto io, me l'ha anche rinfacciato un po'. E adesso si occupa proprio dei sistemi, macchine e capsule. Insomma, brava? Non lo dico io, lo dicono, l'hanno i risultati, promossa, va bene, sì. Va bene. E nel nostro sistema sono gli altri manager a valutare anche i membri della famiglia. Lei viene da una famiglia di origine valdese, ecco, cosa le ha dato questo tipo di educazione? Direi il rigore. Nella religione valdese non c'è la confessione, quindi i peccati non si possono espiare. Quindi una volta che l'hai fatto si è rovinato? Eh sì. Meglio non farli. Te la vedi tu col Padre Eterno direttamente. Esattamente. Ed è molto più severo di qualunque prete. Senta, parlando della sua ultima passione, che è il vino, è lei che ha scelto di puntare sul vino o suo fratello? L'ha suggerito il fratello maggiore, Francesco, che conosceva questa azienda Mastroianni già da decenni. Senta, ma lei, camminando per le sue vigne, a Montalcino ha detto, ho letto, questi vini sono come gli infanti, il loro carattere è già visibile, cioè si vede da cosa subito, com'è che si capisce? Si vede dall'ordine della vigna, da come sono messe bene in fila le viti, da come si sviluppano, da come sono potate, da come crescono i grappoli. Si capisce, insomma, subito. Si intuisce. Senta, ma lei, è vero che non si ricorda niente dei primi 12 anni della sua vita? Ricordo quasi niente, veramente pochissimo. Ma come mai? Si è dato una spiegazione o no? Qualcuno dice che quando si vive troppo bene, si è felici, si tende a dimenticare. Forse questa sì? È la ragione. Sì. Da Valdese, cioè, insomma, cioè, si fustiga un po', insomma, vuol dimenticare cose belle. Senta, ma è vero che quando ha cominciato e voleva sposarsi con la sua moglie attuale, Rosanna, che è una giornalista enogastronomica, tutti erano contrari, dice che non sarebbe durata. Perché? Perché ci siamo conosciuti a febbraio e sposati in aprile. Ma perché dicevano che non durava? Amore a prima vista, bellissimo. E invece loro ritenevano che occorressero alcuni anni. E chi era l'ostacolo maggiore? Il papà, la mamma, chi? No, loro per dire la verità non li avevo neanche informati. Ci siamo sposati e basta. Vabbè. Senta, è con lei che avete fatto un corso proprio per conoscere meglio il vino? Cioè la spinta verso il vino, sua moglie, eh? Diciamo che ha aiutato e fu Luigi Veronelli che era l'ospite di casa per questo corso e poi Giorgio Grai che era il relatore, uno dei più grandi enologi italiani che vi ci ha convinto, hanno dato questa passione in maniera definitiva. Senta, uno dei suoi ultimi progetti è quello di aprire un resort di lusso proprio nella zona di Montalcino. Anche qui sua moglie che spinge, eh? No, direi che in questo caso è l'amministratore delegato di Mastroianni, Andrea Macchetti, che ha suggerito di usare al meglio questi immobili. E quindi pensate di farlo? Ne abbiamo già finito le prime 6 camere e le altre 5 saranno pronte entro la fine dell'anno prossimo. Quindi, insomma, Briatore che dice che bisogna andare verso un turismo di lusso, c'ha ragione. Io piuttosto che di lusso preferisco parlare di qualità, di eccellenza. Il lusso in Italia non viene visto così di buon occhio. Senta, c'è chi dice che oggi Lei ha ritrovato la sua serietà anche grazie a questa avventura del vino, è vero? Sembrerebbe di sì, ma forse è semplicemente l'età più avanzata che sì, porta maggiore serenità. La porta a un'allegria come quando girava in moto la Grecia con sua moglie o navigava a vela sulle isole della Dalmazia? Sì, qualche volta invecchiando si torna bambini o ragazzi. Sì. Quindi questo e lei? È fatto positivo. Più moto o più vela? Come per lei, più radio, più televisione. Ah sì, due grandi amori. Sì, difficile scegliere. Ma senta, ma sinceramente, lei oggi se ne intende più di caffè, di vino o di tè? Quasi quasi mi verrebbe da dire di cioccolato, che di tutti i prodotti è il più complesso. Tant'è che iniziò già mio nonno nel 1933 a produrre cioccolato e ne abbandonò la produzione quando arrivò la Seconda Guerra Mondiale. Ma è vero che il cioccolato vero è quello amaro, quello dolce, insomma, sottoprodotto? Preferisco dire fondente che amaro, fondente, perché scusi, cioccolato buono, fondente, non deve essere amaro, perché non deve essere tostato troppo, deve essere fatto con le specie migliori. La specie migliore è il criollo, che stava quasi scomparendo dalla terra e che è stata recuperata da Gianluca Franzoni, fondatore di invece il cioccolato dolce, vabbè, insomma, è come il vinello. No, ha un'intensità aromatica, una complessità anche un po' importante, ma non deve essere amaro. Non deve essere amaro. Senta, Balzac scriveva: quando il caffè giunge nello stomaco, le idee avanzano come battaglioni di un grande esercito. I ricordi arrivano a passo di carica, i pensieri geniali e subitanei si precipitano nella mischia come tiratori scelti. Lo prendiamo come date della pubblicità? Sì, è un'ottima descrizione degli effetti del consumo del caffè. Mamma mia. Che stimola l'attenzione, la memoria, anche la creatività. Ma sto fatto che il caffè non fa dormire, è vero o no? Scientificamente non è dimostrato, aumenta solo lo stato di allerta, quindi eventualmente favorisce il fatto di svegliarsi anche per un minimo rumore. Ma quanto dura l'effetto del caffè in questo senso nel corpo? Cioè, mediamente viene metabolizzato al 20% all'ora, poi qualcuno lo fa più in fretta, qualcuno più lentamente. Insomma, dopo 5-6 ore non ce n'è più. Senta, la sua creatività nasce da aver bevuto tanto caffè? Credo di sì, in parte, ma credo anche dai geni che mi arrivano da entrambi i genitori. Ma ne beve tanto di caffè? Un paio al giorno e una tazza di tè. Due, tre caffè e una tazza di tè. E come lo beve? Zuccherato o no? Non zuccherato, né l'uno né l'altro. Né nel caffè né nel tè, ecco. Senta, a Renzi, per tirarlo su di morale, perché in questo momento ripartirà per le sue battaglie, ma insomma il morale non sarà altissimo. Cos'è offrirebbe? Un tè, un caffè, un bicchiere di Brunello o un pezzo di cioccolato? Direi un caffè, perché ha bisogno di concentrarsi e sono convinto che farà come l'araba Fenice, che risorgerà in fretta e penso che sarà in grado di vincere altre battaglie. Un buon futuro. Caffè senza zucchero per Renzi. Sì. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Mix 24. Sentite questo. Standing ovation. Standing ovation per Mario Secchi. Perché il New York Times ieri ha scelto fra tutti i soloni del giornalismo italiano, ha scelto Mario Secchi come commentatore del referendum. Allora, per una volta possiamo farci anche un applauso da soli, anche la regia lo sta facendo. Bravo Mario. Bravo Mario. Grazie. Allora, facciamo il titolo per il faccia a faccia di Illy. Sì, è molto bello. Mi veniva tirarsi su. E tu più lo mandi giù più ti tiri su. La rana sull'acqua che scotta. Perfetto, benissimo. Musica. mattinata di luce oggi, nessuno in metropolitana, tutti a cavallo di cavalli da giostra, a fare su e giù in tondo o in dritto, insomma, in ellisse per salire un poco e poi tornare, ma col brivido di avere saltato tutti gli ostacoli. Ha telefonato il Sikander, ovvero Alessandro Magno, ha voluto questo brano da dedicare a Valentina con un messaggio: la giostra vale anche col maggiolone? Allora, dopo i trionfi della stampa internazionale, dove ci porti oggi? E in giro per il mondo. Alla fine la Guerrera li ha messi di palco, perché vabbè, continuiamo, Oh, never before. Vabbè, mai prima, mai dopo. Giovanni, no, io volevo fare un giro per l'Europa, però anche un po' gli Stati Uniti e l'Italia, ovviamente, perché è molto interessante quello che sta accadendo. Ieri il Wall Street Journal ha pubblicato un grafico molto interessante sulla sinistra europea. Insomma, è drammatico. Beh, certo, non sta andando bene. No, vi faccio giusto un quadretto. In Austria le sinistre verdi hanno vinto, ma sono circondati. In Francia il Partito Socialista, lo dicevamo prima, è praticamente alla canna del gas. Sette candidati per l'Eliseo. In Germania stanno freschi, se sperano in Martin Schulz contro il cingolato di Angela Merkel e il martello di Froke Petri dell'AFD. In Spagna avete visto tutti com'è finita il male per il Partito Socialista, cioè si è dimesso Sanchez, che tornerà a fare il fotomodello, credo, l'unica cosa in cui mi pare fosse eccellente, e così via, e hanno dovuto dare il via libera dopo due elezioni a vuoto che hanno perso al governo Rajoy. In Grecia il PASOK è un partito finito, sostanzialmente distrutto dagli scandali, dalla rapacità, dall'incapacità di governo. Il Regno Unito, il Labour, è in una situazione indescrivibile quasi. Assediato in Scozia, ha perso la Brexit, ha perso le elezioni prima e con Corbyn non ha nessuna possibilità di diventare un partito di governo per come sono gli inglesi. Vabbè, Matteo Renzi, da rottamatore a premier congelato e segretario in bilico, e infine i democratici in America, che erano un po' il punto di riferimento di tutti, che sono stati sepolti dalla Clinton e sono impegnati in un riconteggio in due stati a questo punto, dove otterranno un solo risultato, cioè la seconda vittoria di Trump. Ora, certo, un quadro ma vorrei un tuo commento e anche uno di Pietrangelo, perché è devastante la fotografia di quello che sta capitando nel mondo, cioè la perdita di rapporto con la realtà, paradossalmente proprio della sinistra, che del rapporto con la realtà aveva fatto la sua identità, ha portato a questa deflagrante situazione. Pietrangelo? È, come dice Giovanni, una fotografia della realtà con un capovolgimento semantico, cioè la sinistra si è identificata e si è accasata nella fortezza del potere. Esatto, mi sembra proprio così. Saramino! Tra inferno e paradiso, caro Giovanni, caro Mario, finisce sempre a purgatorio. Il no diabolico travolge il sì angelico. Non comincia però la bolgia, si entra e si resta nell'apnea del limbo, e si entra a passo di carica. All'indomani della caduta di Matteo Renzi sarebbe dovuto crollare la borsa, invece quella dispettosa, la borsa che fa, vola. All'indomani del crollo di Matteo Renzi lo chef Bottura sarebbe dovuto andare via dall'Italia, aveva così dichiarato: se vince il no vado in esilio, invece è rimasto e sta buttando la pasta nella pignatta. Il bicameralismo, che non doveva funzionare, entro subito approva al Senato la legge di stabilità. Roberto Benigni e Paolo Sorrentino, che avevano firmato solo appello per il sì, adesso cercano di sbianchettare tutto lo sbianchettabile, imbiancano tutti i sepolcri pur bianchi e questo bianco fa tutto un effetto limbo, tutto un purgatorio, perché al Quirinale poi, dove, come dire, il bianco fa d'uopo, non si risolve il nodo di un nuovo incarico, la legge elettorale che c'è, che fu votata, che fu approvata, non può portare alle elezioni, ma si cerca un altro governo tecnico o peggio, sempre a passo di carica, sempre a passo di carica, peggio con Matteo Renzi col cerino in mano. Tra inferno e paradiso trionfa, caro Giovanni, il purgatorio istituzionale. Ogni altra cosa viene proiettata verso lo spavento. E che cos'è che spaventa più di ogni spavento i pur già spaventati, spaventosi governanti? Il giudizio universale. Le stelle sono tante, milioni di milioni. La stella di chi? La stella di chi? Non si sa. Una, due, tre, quattro, cinque. Chissà quante saranno queste stelle, perché il governo istituzionale Beppe Grillo non glielo fa fare. Neppure Silvio Berlusconi, che ha fatto sapere che non glielo vota. E il purgatorio più pesante dovrà farselo proprio Renzi, costretto a restare, costretto a mangiare gli spaghetti di bottura, costretti a tenersi tra le mani tutti, sì, quelli di Benigni, quelli di Paolo Sorrentino, quello tutto dei vippi, degli uomini chic, delle femmine pittate che hanno votato sì. Alla fine, che cosa può fare? Non quello che fece il suo avo. Cosa fece il suo avo, Giovanni Amintore Fanfani? Cosa fece? Non so, si fece ribattezzare da Indro Mondanelli con il nomignolo più appropriato, cioè il Rieccolo. Ma la Democrazia Cristiana, in quanto tale eterna, proprio perché purgatoriale, ha trovato voce in Romano Prodi, che è tirato per la giacchetta, o meglio ancora, sottratto e tirato per la tonaca, ha detto: il parroco non torna mai nella propria ex parrocchia, neppure per fare le confessioni. Ci sarà, insomma, il giudizio universale? Le stelle sono tante, milioni di milioni. La stella di chi? Vedremo. Scusa, Giovanni, no, sì, però questa cosa che ha detto Prodi, tu come la giudici? Cioè il fatto che lui abbia detto il parroco non torna mai nella sua ex chiesa. Secondo me non è venuta bene come esempio. Cioè, a confessare sicuramente ci va. Ci va, se serve, no? Anche a dire messa. Quindi, se richiesto, non lo so. Non lo so. Cioè, ha ragione in linea di principio, però poi nella pratica non capita non così. Non capita casi mai. Sì, non credo che sia un'autocandidatura. No, figurati. Non mi sembra proprio. C'è mica ci perde la salute. Non penso uno proprio. Non ho l'impressione che voglia questo. No, poi invece volevo dire una cosa a Pietrangelo, che inconsapevolmente, credo, questa cosa del purgatorio è stata usata dai giornali anglossassoni, è una formulazione bellissima. Mo si è scatenato, capito? No, noi l'abbiamo citato il New York Times, non l'avessimo mai fatto. È il concorrente, è bello perché l'Italian Limbo è molto bella, l'Italian come situazione limbo, dei sospesi proprio. Certo. E qui ci vuole Silvana Manga con il mambo, però non l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. Vai Mario con la bolla. Sì. Oh, the weather outside is frightful. The fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Segnalo che Alessandra Fiori ha un albero di Natale in regia in mano. Questa è la meravigliosa Diana Krall. Vabbè, il brano è inutile presentarlo, sentite. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight. Quanto amo il Natale. Allora, io vorrei andare ancora una volta negli Stati Uniti e ancora una volta occuparmi del Giappone, perché ieri è successo un'altra cosa, si è giunto un altro mattoncino alla casa. Dopo l'incontro, dopo il viaggio a Pearl Harbor, sì. Allora, Shinzo Abe ha annunciato che andrà per l'album, non era mai successo nella storia. L'abbiamo detto ieri. E sempre ieri si è aggiunto un tassello interessantissimo, perché il numero uno della SoftBank, Masayoshi Son, ha annunciato un investimento della banca giapponese negli Stati Uniti per la modica cifra di 50 miliardi di dollari. Obiettivo: creare 50.000 posti di lavoro. Ma investiti in cosa? Varie. Telecomunicazioni, hanno una fusione con Sprint in corso e così via. Allora, questa cosa è molto interessante perché conferma che l'anello di ricongiunzione in Asia degli Stati Uniti sarà il Giappone, e non la Cina. Mm. E tutto questo è effettivamente la rivoluzione di Trump. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. L'annuncio della sua morte mi ha profondamente addolorato. Eravamo degli amici fraterni, Sillone ed io. Era un uomo dal cuore puro, un uomo, un intellettuale onesto, ecco. Silone c'ha una frase, l'ho sentito di recente: gli schiamazzi della folla non possono far tacere la voce della coscienza. Lì c'era tutto Silone in questa frase. Secondo Sandro Pertini è racchiusa in questa frase la filosofia di Secondino Tranquilli, in arte Ignazio Silone, uno degli scrittori italiani più importanti del XX secolo. Uno scrittore deve prendersi la libertà di dire quello che pensa. Ma l'autore di Fontamara e di Vino e Pane è anche al centro di un giallo. La verità storica su Silone antifascista e avversario del regime viene messa in discussione nel 1996 dagli studi di due ricercatori, che danno una nuova versione. Ignazio Silone collaborava con la polizia fascista fornendo notizie sull'organizzazione, sui nomi dei dirigenti, sulle loro false identità. Insomma, Silone era un informatore dei fascisti. Antifascista o informatore della polizia di Mussolini? La polemica riempie le terze pagine dei giornali, ma la verità, come dice lo stesso Silone, è da cercare nei suoi romanzi. Voglio rivelarvi un segreto. Questa verità semplice è tra le righe dei miei libri. Sei testardo, questo è sicuro. Insomma, allora dopo il giornale radio, per i gialli della storia, il caso Silone. Intanto Pietrangelo, ci fai il canzoniere? Eccolo. Finché giungo in fondo, e l'isola degli aranci sta dall'altra parte, celeste, gialla e un poco verde nella sua breve lontananza, e in mezzo c'è un piccolo tratto di mare, proprio piccolo, ma non ho il coraggio di passarlo, padre. Non ho il coraggio. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Mario, ci sono due cose bellissime. La prima è il Papa che dice mancano leader in Europa. È molto interessante quello che dice, soprattutto è vero, approfondito, ed è vero. E l'altra cosa stupenda, ti ricordi il crollo della sterlina del 7 ottobre sui mercati asiatici? Un singolo trader ha fatto questa cosa, un trader di Citi, di Citibank, che è andato letteralmente nel panico e ha piazzato ordini multipli di vendita quella mattina. Quindi dipendiamo da quasi niente. Una cosa incredibile. Siamo appesi a un filo proprio sottilissimo. Adesso col professor Bernabei, come sempre, Roberto Bernabei, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, settembre 2016. Differenze di sesso nel rischio di infarto del miocardio, lo studio di Tromso. Che ci sia una differenza nell'incidenza di infarto del miocardio tra uomo e donna è una roba che si sa da molto tempo, è sempre stato così. Si è attribuito questa differenza ha una diversa incidenza dei fattori di rischio, cioè gli uomini fumano di più, hanno la pressione arteriosa più alta, hanno il colesterolo più alto e quindi è evidente che hanno maggior facilità di incorrere nell'infarto. Lo studio smentisce questa roba perché sono state seguite 34.000 abitanti di Tromso, è una ridente località del nord Europa, dai 35 ai 102 anni, e sono stati seguiti per una media di quasi 18 anni. Tra queste 34.000 persone, 886 donne hanno avuto un infarto del miocardio, che naturalmente era più frequente l'incidenza con l'aumentare dell'età. Ma la cosa importante è che comunque, anche tenendo conto dei valori di colesterolo, pressione arteriosa e fumo, e quindi eliminando o facendo una statistica che permettesse di conteggiare questi valori diversi tra uomo e donna, e quindi ci desse la possibilità di calcolare bene il rischio, le donne comunque, anche a parità di colesterolo, pressione e fumo, hanno minor infarto dell'uomo. Quindi, come dire, è il genere che premia. E per finire, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per tutti noi? Oggi una canzone dedicata ai giovani, non più giovani, che non sorridono più. L'esercito del surf, Katrin Spack. Ma che cosa c'è? Ma che cosa c'è? Vai insieme a me. Vai insieme a me. E vedrai che poi. E vedrai che poi. Ti passerà. Mi vuoi dir perché? Mi vuoi dir perché? Non sorridere.